La storia di Filippo e del libro dell'amore, così come è narrata nel libro rosso. Dopo i terribili giorni della crocifissione, divenne rischioso per la famiglia di Gesù restare in Israele. Suo zio, Giuseppe d'Arimatea, si adoperò per trovare un rifugio a Maria Maddalena, che stava per dare alla luce l'erede di Gesù, gli altri suoi figli e ad alcuni dei loro più intimi seguaci. La bella città di Alessandria era rinomata per la sua cultura e la sua tolleranza, una fiorente società in cui molte religioni e culture diverse convivevano in armonia. Era abbastanza vicina da rappresentare una soluzione rapida e temporanea, ma abbastanza lontana da essere sicura. Maria Maddalena aveva bisogno di un posto tranquillo per partorire. Giuseppe di Arimatea godeva di grande prosperità, grazie al suo successo come mercante di stagno, e fu sotto la copertura delle sue navi mercantili che riuscì a portare in Egitto, lontano dal pericolo, i restanti membri della famiglia. Sarebbe stata la seconda volta che una grande Maria era costretta a fuggire dalla propria nazione per proteggere il benedetto figlio che aveva in grembo, la seconda fuga d'Egitto. Durante l'isolamento, Maddalena mandò a chiamare il suo fidato amico, il colto apostolo di nome Filippo, perché le facesse visita ad Alessandria. Lui accolse la sua richiesta e durante quei mesi la Nostra Signora gli lesse il libro dell'amore, affinché lo trascrivesse alla perfezione sotto la sua guida e la sua direzione. Fu così che quei due grandi discepoli e maestri crearono una copia perfetta delle parole originali di Gesù. Maria Maddalena avrebbe tenuto con sé il libro dell'amore fino alla fine dei suoi giorni, ma desiderava che la copia venisse mandata a Giacomo, il fratello di Gesù, che era rimasto a Gerusalemme. La Chiesa nascente di Gerusalemme aveva bisogno della dottrina nella sua forma più pura perché la via potesse continuare. Giacomo ricevette la copia spedita da Alessandria e la custodì a Gerusalemme, dove fu racchiusa nel sacro contenitore scolpito da Nicodemo. Filippo andò incontro al suo destino nella terra dei Sumeri, dove predicò la via per il resto della sua vita, traendo gli insegnamenti dal libro dell'amore, così come un tempo li aveva trascritti. Il locale di pietra sotterraneo che serviva da cappella dell'ordine del Santo Sepolcro aveva quasi 1.000 anni. Era stato costruito dai primi cristiani che praticavano la loro fede lì in segreto, lontano dagli occhi indiscreti dei romani. Matilde scendeva con cautela le scale ripide, stringendo forte la mano di Isabella, che camminava davanti a lei. Il maestro le guidava, reggendo una lampada a olio, ma la camera era stata opportunamente preparata per il loro arrivo da alcuni novizi che avevano collocato candele di cera d'api nei supporti di ferro alle pareti. C'erano ombre che guizzavano dappertutto. Le pareti in pietra della cappella erano annerite dal fumo delle candele e l'aroma inebriante dell'incenso conferiva all'ambiente una profonda sacralità. L'esperienza di Matilde con il volto santo aveva sconvolto il maestro, solitamente imperturbabile. Sebbene sapesse che quella bambina era speciale, non era preparato al fatto che avesse una visione a occhi aperti in età così tenera ed era certo che fosse autentica. Aveva visto una luce nei suoi occhi mentre riferiva l'accaduto prima a Isabella e poi a lui. C'era una grazia in quello sguardo, una certezza. Non era una fantasia creata da una ragazzina sciocca in cerca di attenzioni. Era un'esperienza mistica, vissuta da una bambina, scelta per un destino speciale. Aveva imparato a riconoscere la differenza in tutti gli anni trascorsi come insegnante e mentore. Pertanto, il maestro aveva stabilito che Matilde venisse portata subito alla presenza del libro rosso. La minuscola cappella aveva un semplice altare di pietra, originale come il resto della struttura sacra che lo ospitava. Malgrado fosse un luogo consacrato, non c'erano crocifissi né croci di sorta in tutta la struttura. Sulla preziosa tovaglia di velluto stesa sull'altare c'era un'arca di legno, un magnifico scrigno i cui intarsi, che riproducevano scene tratte dalla vita di Gesù e Maddalena, erano stati eseguiti dalla mano di Luca. Il contenitore era sacro, quasi quanto il contenuto, ed era noto all'ordine come Arca della Nuova Alleanza. Il bordo dell'arca era ornato da un disegno di diamanti, simbolo della sacra unione, mentre la X dell'illuminazione gnostica era incisa profondamente su ognuno degli angoli e messa in evidenza dalla vernice dorata. Il maestro guidò Isabella e Matilde verso l'arca e fece segno di inginocchiarsi davanti a essa. Loro obbedirono e rimasero in ginocchio mentre recitavano una preghiera per ringraziare Gesù di aver donato loro quel testamento sacro. Il maestro si avvicinò all'altare e armeggiò per un attimo con il pesante coperchio dello scrigno prima di toglierlo e appoggiarlo per terra. Infilò una mano nell'arca e sollevò il volume riccamente ornato che vi era custodito. Matilde alzò la testa mentre il maestro prendeva il libro rosso. Era un enorme volume rilegato con una pelle di colore rosso scuro, visibile dal pesante dorso. La copertina anteriore era laminata d'oro e aveva incastonate cinque grosse gemme che formavano una X piuttosto che una croce. Il maestro si portò il libro alle labbra e baciò la gemma centrale, un rubino che scintillava alla luce delle candele. La parola di Gesù per chi ha orecchie per intendere. Passò il libro a Isabella, che lo baciò e ripeté, prima di passarlo a Matilde, che se ne stava lì tutta seria con gli occhi sgranati. La bambina imitò alla perfezione i gesti di Isabella. Il maestro portò il libro rosso su un tavolo davanti all'altare con le due allieve che lo seguivano. Sorrise a Matilde, puoi toccarlo, bambina. Un po' titubante, Matilde fece scorrere le piccole dita sulla copertina dorata. Ecco il libro rosso. Questo è il testo più sacro per il nostro popolo perché fra le altre cose contiene le parole scritte da Gesù nel mondo. In queste pagine, Matilde, c'è il Vangelo completo scritto da Gesù, la buona novella che noi conosciamo come il libro dell'amore. Questa è la sacra copia fatta dall'Apostolo Filippo direttamente dall'originale e data a Nicodemo affinché la conservasse nel volto santo. Porta il sigillo di Maria Maddalena che indica la sua approvazione della copia. Avrai già visto questo simbolo prima d'ora. È usato sui documenti più segreti dell'ordine e indossato dai nostri più alti iniziati. Il maestro aprì il libro con grande cura e voltò una pagina consunta ma pesante con la punta delle dita. In fondo alla seconda pagina c'era una firma in greco: Magdalene, Maddalena. Sotto la firma spiccava un simbolo che Matilde aveva già visto. Era lo stesso disegno che c'era sull'anello di rame di Isabella, quello a forma di disco che a volte si impigliava ai capelli di Matilde mentre la sua tutrice glieli intrecciava. Era formato da nove cerchi che danzavano intorno a una sfera centrale. Era un'immagine del paradiso portata dai membri dell'ordine per ricordarsi che non erano mai separati dal divino, come in cielo, così in terra. Matilde non sapeva che quel simbolo era il sigillo di Maria Maddalena, era uno dei segreti dell'ordine. Anche tu avrai un anello come questo, con il sigillo della Maddalena, quando avrai l'età per conoscere i misteri, le sussurrò Isabella. Matilde ebbe un fremito di eccitazione, ma si ricompose quando il maestro riprese a parlare. A mano che crescerai, verrai istruita direttamente dal libro dell'amore. Verrai anche educata alle profezie di Sara Tamar, dovrai memorizzarle e imparerai a interpretarle. Alcune di esse riguardano in modo specifico la tua nascita e devi comprenderle appieno. Alla fine studierai le storie contenute nel libro rosso, sono i segreti atti degli apostoli, le storie di discepoli che hanno sacrificato tutto per i veri insegnamenti della via dell'amore. Lo facciamo per emulare il libro scritto da uno dei nostri fondatori. Luca, questa è la tua prima lezione, Matilde. Apprendere quali sono le tre parti del libro rosso. La prima è il libro dell'amore, che è l'unica vera parola. La seconda è la raccolta di profezie di Sara Tamar, che sono sacre per il futuro. La terza sono gli atti degli apostoli, che sono stati raccolti dalla nostra gente sin dagli albori del cristianesimo. Per stasera questo è tutto ciò che ti serve sapere. Matilde progrediva sotto la tutela del maestro, ma per quanto amasse le lezioni, quello che preferiva più di ogni altra cosa era il meraviglioso labirinto di pietra scolpito nel vasto giardino dell'ordine. Aveva gridato dalla gioia quando lo aveva visto per la prima volta, anche se conosceva alcuni disegni del labirinto e ne aveva una versione in miniatura disegnata sulla schiena della sua bambola, Arianna. Vederne uno vero, così gigantesco che i suoi passaggi potevano essere percorsi da quasi 20 adulti in una volta sola, era una cosa assolutamente straordinaria. La prima volta il maestro l'aveva accompagnata, tenendola per mano e guidandola lungo i viottoli tortuosi che portavano al centro. C'è solo una via per entrare, Matilde. Sebbene i passaggi facciano molte curve, se rimani fedele al tuo percorso non ti perderai mai. Questa è la prima lezione del labirinto. Cammina con determinazione verso il centro perché sai che è lì che ti aspetta il divino. E anche quando ti sembra che il sentiero serpeggiante ti stia facendo allontanare, devi sempre avere fede nel fatto che ti riporterà là, da dove sei venuta. Ripeto, è come la vita. Sarà questa fede a portarti ogni volta a destinazione, senza mai fallire. La maggior parte delle cose che ti insegnerò sul labirinto sono davvero molto semplici perché la verità è sempre semplice, Matilde. Camminò con lei in silenzio per qualche istante prima di continuare la lezione. Ora, bambina, a volte il divino parla alle nostre anime assopite in modi differenti, con i sogni, per esempio. So che ogni tanto fai dei sogni che però non riesci a capire. Questo è il modo in cui il divino ci parla, perché le nostre menti sono aperte quando dormiamo e i suoi messaggi possono raggiungerci senza alcuna interferenza. Un altro modo in cui ci parla è attraverso i numeri. I numeri sono un linguaggio a sé stante, con profondi livelli di significato che la maggior parte degli esseri umani non riesce ad afferrare, ma la costruzione di questo labirinto si basa su numeri assai particolari. Ci sono 11 circuiti che portano al centro e 11 che portano lontano da esso. Nel linguaggio sacro dei numeri, che nacque in Terra Santa ai tempi del saggio re Salomone, l'11 rappresentava il percorso di iniziazione. Se unisci questi circuiti ne ottieni 22. 22 è il numero maestro, il numero del completamento dell'iniziazione. Il labirinto in cui stiamo camminando è stato costruito dallo stesso Salomone insieme alla sua amata, la regina di Saba. So che sono molte le cose da imparare e non mi aspetto che le imprima nella tua mente o nel tuo cuore tutte in una volta. Fai solo in modo di ascoltare mentre segui il percorso del labirinto. Matilde ascoltava e si sforzava di capire, ma mentre percorreva quel sentiero sacro, sentiva un ritmo particolare nei suoi piedi che non poteva controllare. Cercava di trattenersi e di camminare in modo composto, tuttavia non desiderava altro che danzare e correre per quel magico intrico di vie dove nessuno mai si perdeva e tutti trovavano Dio. C'era gioia nel labirinto e una sorta di libertà. Persino alla tenera età di 6 anni, Matilde aveva capito benissimo che il labirinto era un particolare luogo dello spirito. La colmava di luce e di amore ed era felice di imparare in un ambiente così sublime. Alla fine non riuscì più a trattenersi e terminò il circuito di corsa. Quando raggiunse il centro, danzò sotto la luce dorata del sole della sua amata Toscana. Mi baci con i baci della sua bocca. Sì, le tue tenerezze sono i più dolci del vino. Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi. È come olio profumato il tuo nome, per questo le giovinette ti amano. Attirami dietro a te, corriamo, mi introduca il re nelle sue stanze, gioiremo e ci rallegreremo per te, ricorderemo le tue tenerezze più del vino. Ha ragione, ti amano. Il Cantico dei Cantici 1, 2, 4. Questi primi versetti del più sacro poema d'amore furono ispirati dall'unione divina del grande re Salomone e della regina di Saba, poiché mentre erano abbracciati nella sacra unione degli amati, nella luce della fiducia e della consapevolezza, scoprirono che i loro amori più grandi erano Dio e il mondo che Dio ama tanto. Gioiremo e ci rallegreremo per te, ricorderemo le tue tenerezze più del vino. Ha ragione, ti amano. Queste sono parole di lode da parte degli amati, poiché essi hanno trovato nel divino la camera nuziale. Attraverso l'unione sacra sono giunti a una piena consapevolezza dei doni della vita che il divino ci ha concesso di esprimere nel nostro corpo materiale. Tutto l'amore è il divino e il divino è tutto amore. Quando siamo uniti ai nostri amati, viviamo come espressione di quell'amore e il divino è davvero presente nella camera nuziale. Il cantico comincia con un bacio perché questa è la forma più sacra di espressione fra gli amanti e le amanti. Nella nostra santissima tradizione che viene da Salomone e dalla regina di Saba, la parola è nashah, che significa più di un semplice bacio. Significa respirare in armonia, combinare gli spiriti di due in uno solo, condividere lo stesso alito, fondere le forze vitali in una cosa sola. È con il respiro armonico del bacio che veniamo fecondati per diventare antropoi, vale a dire esseri umani pienamente realizzati. Attraverso il bacio rinasciamo, ci diamo la vita a vicenda, condividendo l'amore che è dentro di noi, fondendo il divino con noi stessi. Tramite la santità del bacio, due anime si fondono in una. È il preludio all'unione sacra degli amati. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Il cantico di Salomone e della regina di Saba dal libro dell'amore secondo la trascrizione del libro rosso. Lucca 1052. È perfetta, è proprio come avevi detto. Sono assolutamente convinto che ci guiderà in una nuova era della via. Non vi è dubbio che sia l'attesa. Mio zio concorderà quando sentirà tutto quello che è accaduto. Il tempo ritorna, Isabella, proprio come abbiamo sempre saputo. Anselmo aveva ascoltato Isabella con attenzione mentre questa raccontava gli ultimi prodigiosi avvenimenti della giovane vita di Matilde. Ora aveva un quadro più completo del perché la bambina gli avesse dato quell'oro. Il volto santo le aveva parlato dentro San Martino. Era uno splendido presagio. Isabella gli sorrise, le sue fossette profonde comparvero nel modo più seducente. Lui ricambiò l'espressione aggiungendo: "Siamo tutti molto orgogliosi del lavoro che hai svolto con lei, ma nessuno più di me, mia amata." Anselmo accorciò la distanza che li separava. La porta era chiusa, era a quell'ora della notte, le probabilità che qualcuno li disturbasse erano minime. E poi erano nel territorio dell'ordine, dove la sacra unione degli amati e delle amate era considerato il più alto dei sacramenti. Era una parte fondamentale della loro dottrina ed era enfatizzata nel libro dell'amore, pertanto aveva la precedenza su qualunque legge creata dall'uomo. Isabella si avvicinò, scivolando nel calore dell'abbraccio di Anselmo, una sensazione che le era mancata molto da quando era diventata la balia di Matilde. I loro cuori erano uniti sin da quando erano bambini a Lucca e il loro amore reciproco era superato solo da quello che nutrivano per l'ordine e per gli insegnamenti del maestro, gli insegnamenti del libro rosso che avevano giurato entrambi di preservare. Sussurrò i primi versi del cantico sacro intonandolo con la più tenera sensualità mentre accostava le labbra alle sue. Mi baci con i baci della sua bocca, le tue tenerezze sono più dolci del vino. Matilde stava gridando. Isabella attraversò di corsa il corridoio dove aveva dormito sul giaciglio di un novizio. Matilde era rimasta sveglia fino a tardi a studiare nella cappella con il maestro, il quale aveva deciso che l'attesa doveva trascorrere la notte lì nella semplicità del dormitorio dell'ordine. Il primo pensiero di Isabella fu che la bambina si fosse svegliata e non avesse riconosciuto la stanza. Si rimproverò per averla lasciata da sola. Sarebbe dovuta restare con lei, ma l'aveva vista così stanca che le sembrava del tutto improbabile che si svegliasse prima dell'alba. Matilde era seduta sul suo lettino e singhiozzava. Che cosa c'è, piccola mia? Isabella l'abbracciò e la cullò dolcemente mentre piangeva finché i singhiozzi della bambina non cominciarono a calmarsi nel caldo e sicuro abbraccio della sua seconda mamma. Papà! Matilde cercava di pronunciare le parole fra un singhiozzo e l'altro, ma piangeva ancora troppo. Stavi sognando, annuì. Papà, nel sogno è successo qualcosa di terribile. Ah, papà, Dio è arrabbiato con lui. Sciocchezze. Il divino è amorevole e giusto. Non è un divino che va in collera e cerca vendetta. Non farebbe mai del male al tuo papà. Frate Gilbert dice che il divino punisce i cattivi e dice che papà è cattivo. Matilde, mi meraviglio di te. Hai appena trascorso una serata in compagnia del nostro tesoro più sacro, che si chiama Libro dell'Amore per una ragione. è la celebrazione dell'amore divino per i suoi figli. Ma Isa, mio padre non vuole donare il suo denaro per costruire una chiesa per il volto santo. Devo vederlo. Devo convincerlo a costruirla. Così Dio non si arrabbierà. Isabella sospirò. Era impossibile ragionare con lei in quelle condizioni. Era ancora in preda agli spasmi emotivi dell'incubo e Isabella in cuor suo era preoccupata. Più di una volta i sogni di Matilde si erano rivelati profetici, come c'era da aspettarsi. Tuo padre è partito questa sera per la sua battuta di caccia, ma ti prometto che non appena sarà di ritorno discuteremo con lui della ristrutturazione di San Martino, va bene? Matilde annuì. Si rannicchiò di nuovo sotto le coperte, sfinita dalle emozioni. Resta con me, Isa, la implorò. Ma certo, tesoro mio, la rassicurò Isabella e per farla riaddormentare le cantò la canzone che la calmava sempre, quella in francese, sull'amore eterno. La notizia giunse prima a Mantova, dove era rimasta Beatrice di Lorena, la madre di Matilde. Dov'è mia figlia? Gridò la donna fra le lacrime. Portatemela! Le fu ricordato che Matilde era ancora a Lucca, ma sarebbe stata inviata subito una scorta insieme a una doppia guardia di cavalleria a prendere la bambina per riportarla nell'abitazione della sua infanzia a Mantova. Doveva assolutamente essere a casa per il funerale. Per quanto sembrasse impossibile, il grande Bonifacio, conte di Canossa, signore di Mantova e granduca di Toscana, era morto. Era stato ucciso in modo sospetto da una freccia vagante che gli aveva trafitto la gola durante una battuta di caccia il mattino dopo il profetico sogno di Matilde. Il tempo ritorna. Molti sono i chiamati e le chiamate. Gli eletti e le elette giurano fedeltà, promettono al divino, si promettono a vicenda che l'amore non muore mai. I profeti e le profete ritornano, devono. Perché la verità è eterna, così come l'amore. Tutte le donne e gli uomini di cuore puro conosceranno e vivranno la verità e si realizzeranno pienamente in questo corpo, come in cielo, così in terra. Ecco perché il tempo ritorna. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Dalle profezie di Sara a Tamar, così come sono conservate nel libro rosso.